approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Rilevatori di velocità, sistemi per le zone a traffico limitato, piattaforme digitali integrate per il trasporto merci e per i corridoi doganali, Bluetooth, Wi-Fi e satellitari. Sono questi alcuni degli strumenti di uso sempre più comune nella mobilità urbana ed extraurbana. Si tratta dei cosiddetti sistemi di trasporto intelligenti, o ITS, basati sull'interazione tra informatica, telecomunicazioni e multimedialità. Puntano a sostenibilità, risparmio ed efficienza, e per questo sono al centro delle politiche mondiali dei trasporti. Secondo le Nazioni Unite, infatti, le inefficienze delle reti di trasporto costano globalmente tra l'1 e i 2 trilioni di dollari all'anno, mentre la congestione della mobilità pesa sul PIL delle economie sviluppate circa l'1%. Dal 2001 la Commissione europea ha inserito le tecnologie ITS nel Libro Bianco sui trasporti. Nel 2014, invece, l'Italia ha adottato il Piano di Azione Nazionale sui sistemi intelligenti di trasporto. Salve a tutti, da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Come avete ascoltato dalla nostra scheda, l'informatica e la telematica caratterizzeranno sempre di più l'evoluzione del mondo dei trasporti. Già oggi, infatti, i computer e la rete governano tutti i nostri spostamenti, ma in un prossimo futuro, che in molti casi è già realtà, questa presenza sarà ancora più importante. Pensiamo, ad esempio, alla sicurezza della circolazione stradale, dove avere informazioni in tempo reale è determinante. Ma pensate anche a tutto il tema della sicurezza antiterrorismo, che ha assunto dimensioni importanti e decisive proprio in queste ultime settimane. Di questi argomenti parliamo in compagnia dei nostri ospiti, che sono Rodolfo De Dominicis, presidente di WIRNET, la rete telematica per la logistica nazionale, e Fabio Pressi, AD di InfoBlu, società del gruppo Autostrade per l'Italia. Ecco, De Dominicis, in che modo la telematica applicata alla movimentazione delle merci può essere d'aiuto alla lotta antiterrorismo? Il problema della movimentazione delle merci e della security, cosiddetta sicurezza in termini di sicurezza alle persone contro il terrorismo e contro comunque gli atti dei terzi, è un problema, diciamo, che da lunga data viene dibattuto e su cui si cerca di trovare, diciamo, importanti soluzioni. Arriva un container su una nave in un porto, un container che non contiene dei materiali che debbono essere verificati, ad esempio dall'organizzazione doganale, non dalla finanza, perché contiene delle merci, diciamo, non interessanti da quel punto di vista, che quindi sfugge al controllo iniziale, alla selezione iniziale. A questo punto questo container sale su un camion e può arrivare opportunamente attrezzato con materiali esplodenti, esplosivi, infettivi o quello che sia all'interno di una grande città e lì determinare grossissimi problemi alla popolazione. Ecco, com'è possibile allora a questo punto frenare o comunque in qualche modo limitare questo pericolo? Il pericolo ovviamente non può essere eliminato, come tutti i rischi non si cancellano, ma si possono mitigare o trasferire. Uno dei modi per mitigare il rischio è quello di dotare il camion di un apparato di bordo che permetta, diciamo, a una centrale operativa collegata in maniera intelligente poi al sistema di sicurezza nazionale, a far sì che il camion possa essere opportunamente tracciato. Questo significa che colui che porta il camion sa che in ogni caso c'è qualcuno che sa da dove è partito e dove lui sta andando. Questo sicuramente può essere un deterrente importante. Se a questo si aggiunge che al controllo del vettore si può aggiungere un controllo della merce, senza però per questo intervenire sulla merce stessa, che questo indubbiamente creerebbe problema di compressione sul business, questo, a questo punto, il controllo della merce con opportuni tag che si possono mettere, transponder, come dire, che si possono mettere sul contenitore, e un apparato di bordo che serve a tracciare il vettore, fa sì che merce e vettore vengano tracciati. A mio avviso, ma avviso, diciamo così, di chiunque si occupi di questa materia, il problema della sicurezza, il rischio può essere nettamente ridotto, limitato. Certo, esistono dei sistemi in grado di fare questo tipo di attività, di svolgere questo ruolo? Ma il sistema legato alla piattaforma logistica nazionale fa esattamente questo tipo di lavoro. Ovviamente non è un sistema obbligatorio per come esso è concepito, perché è un sistema che deve portare vantaggio al mercato e quindi aumentare l'efficienza, diciamo, del mercato stesso e anche la sicurezza, ma nel senso della safety. Stiamo parlando di problematiche legate a cosa si trasporta, se quello che si trasporta è un materiale, che ne so, un idrocarburo, un alcol o quello che sia. Insomma, questo sistema è applicabile sostanzialmente anche ai trasporti di merci pericolose. Questo sistema è applicabile ed è applicato, è già applicato alle merci pericolose. Torniamo invece sulle strade italiane per parlare di sicurezza stradale in compagnia di Fabio Pressi, AD di InfoBlu, società del gruppo Autostrade per l'Italia, che ha appena lanciato una app tutta dedicata al mondo dei trasporti che si chiama MyWay Track e che dovrà dare un contributo importante al tema della sicurezza stradale. Innanzitutto, di che cosa si tratta? Che cos'è questa app, Pressi? L'applicazione particolare si inserisce in un percorso di strategia di comunicazione digitale di autostrade a servizio di chi viaggia, perché mettiamo al centro il viaggiatore e cerchiamo di mandargli informazioni precise, capillari e soprattutto localizzate. Ovviamente la diffusione degli smartphone aiuta in questo lavoro, perché è da ormai molti anni che li utilizziamo su due fronti. Da un lato abbiamo strumenti di analisi di quelli che vengono chiamati sensori mobili e diciamo che ne stiamo analizzando più di 2 milioni contemporaneamente in tempo reale, che ci generano un'informazione dettagliata su 100.000 km di strade. Ecco, quindi voi sapete in qualunque momento che cosa sta succedendo su quella strada e quindi siete in grado anche di comunicare agli utenti cosa succede. Esattamente, questo è l'utilizzo degli smartphone come diffusione dei servizi. Abbiamo iniziato a luglio con il lancio della applicazione MyWay, un'applicazione dedicata a tutti i viaggiatori, disponibile su store Apple e Android, e abbiamo già ottenuto ottimi risultati, perché 400.000 download con 220.000 utilizzatori, quindi circa il 60% che utilizzano costantemente l'applicazione. È un'applicazione innovativa perché dà l'informazione rispetto al percorso che si sta facendo, quindi anche senza una destinazione l'applicazione filtra l'informazione e finalmente dà un'informazione utile nella direzione in cui si sta viaggiando. Ecco, adesso c'è questa evoluzione track, tra l'altro dobbiamo dire che il mondo dell'autotrasporto è particolarmente sensibile a questo tipo di informazioni, perché con l'avvio del piano neve partito proprio qualche giorno fa c'è il rischio che in caso di nevicate ci siano dei blocchi del traffico degli autotrasportatori e quindi hanno bisogno di avere in tempo reale queste informazioni. Quindi sì, è proprio questo il punto. Abbiamo lanciato MyWay Track come complemento di MyWay perché vogliamo creare uno strumento di comunicazione diretto tra chi gestisce le operazioni invernali come autostrade in collaborazione e in sintonia con Polizia Stradale e l'autotrasportatore. Quindi l'applicazione è una sezione di in cui può trovare tutte informazioni sia in fase previsionale, quindi le previsioni meteorologiche con le mappe nevose delle situazioni critiche, o durante le criticità neve. Una importante innovazione riguarda le notifiche, cioè gli allarmi che l'applicazione riceve in caso di previsioni o di forti nevicate in atto che possono modificare la viabilità. Quindi un punto importante è che l'applicazione, anche chiusa, riceve una notifica che ti consente di accedere direttamente alla sezione ed essere informato di quello che sta capitando su strada. Tra l'altro posso sapere quindi qual è la situazione del traffico davanti al mio veicolo, ignorando ciò che succede dietro. Sì, questa è una componente innovativa importante, perché utilizzando e sfruttando le capacità di localizzazione dei telefonini si riesce a fare un filtro, e anche senza inserire la destinazione uno riceve le informazioni, i blocchi eventuali che va a incontrare anche a distanze lontane di 100 km rispetto al proprio percorso, e quindi decidere di fermarsi o di fare strade alternative. Inoltre l'applicazione ha tutta una serie di funzionalità che complementano l'informazione meteo, quale 1000 telecamere, l'informazione su tratte tutor, si può avere la consultazione dei prezzi benzina in tempo reale, consentendo anche di pianificare il rifornimento più economico. Ovviamente questa applicazione avrà un impatto, lo vediamo tutti i giorni, rispetto a quello che si dice il veicolo connesso, perché sappiamo che il nostro navigatore come lo conosciamo oggi, domani sarà completamente diverso, sarà integrato con le app, e quindi l'applicazione già oggi è pensata per essere in un futuro molto prossimo integrata all'interno dei veicoli. Su questo noi stiamo lavorando molto. Bene, termina qui anche questa puntata di Container. Vi ricordo che questa è una produzione realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture